che c'aveva poca cosa la, la regolazione, ecco, da, la regolazione è talmente millimetrica che o era troppo o era poco, ecco. In questo caso la modulazione tua è. Adesso per dire, sono attaccato e ti sia come se ti avessi tanti blatti, però ma è da 30, 30 blatti, così, così, così. E segna a 1,3 o 4 stazionale come quando non mai dava la 80 con l'altra. Conta anche che c'è. C'è il lecca lecca anche, cioè già modulazione è forte, più lecca lecca e ti confonde un po' tutto. Guarda come sto bene io, chiaro, limpido, requaro, attaccato, non attaccato, non spingo troppo però. Tu sei fortunato, io dove ti dica, cioè io adesso guarda, non metto un kilowatt, è un kilowatt, mi dà... kilowatt mi dà 100 watt, 80 watt, dai. No, aspetta, già, non ci capiamo. Tu il fondo scala gli stai mettendo 100 watt o un kilowatt? Tu hai detto un kilowatt. Prova a mettere la scala a 100, scusa. Fino a 100 watt, tanto quella è sotto i 100 watt, quindi deve mettere la scala a 100 di fondo scala. E tu cosa dici che l'abbia messo? Te l'ho detto che a 100 da meno stazionario meno tutto, poi ti dà anche 30 watt. No, no, va, lascia perdere, che avevo un tempo. Ah, ecco perché era regalato. Non dai i watt che deve dare, da. Vabbè, non è un problema. Comunque già, tu dicevi che volevi il 747 che non si trovava. Infatti non è in catalogo, però ricordati, il 203 ha le stesse caratteristiche del 747. Anzi, se tu guardi i vecchi, gli ultimi 747 fatti dalla CTE, dentro scoprivi che c'era un RM Italy KL 203, proprio vedevi sul circuito stampato la sigla RM Italy KL 203, quindi il 747 è il 203, questo qua. Ma quello lì già me lo busca Claudio, lo deve prendere Claudio, Claudio me lo deve portare, capito? Quello 747 me lo busca lui, vediamo un po' se va meglio. Vabbè, io sai che sono per le cose nuove, cioè il 203 lo trovi dai soliti venditori, certo costa un po' di più, ma ormai già sei questo ed è gratis, anche che ti dia quei 30-40 watt, già andrà bene. Oh, quant'è insomma, va bene. E poi ti può pulire la nuova sopra, scalda tantissimo, viene a mettere una ventola magari. È strano, cazzo, non capisco cosa c'abbia. Proviamo così adesso. Ascolta, ripeti, che scala stai usando per il wattmetro? Scala 100 o scala 1000? 100. Beh, non va quello che devo dare, dai. No, mi sono tutti bravi. Già, io non ti capisco, scusi, perdonami, ma oggi la modulazione non credo che sia il mio orecchio. Devi dirmi che scala stai usando, scala 100 o scala 1000? E su questa scala quanti watt sono? 0,2, 0,3 facciamo, va. Sto usando 100 con la scala 100. No, scusa, se sulla scala 100 vedi 0,2 sono 20. No, 0,2 sono... Boh, non ci capiamo oggi già. A 120 watt sono quando passo il 2, non sono 2 watt, 20 watt, se no sarebbe stato sul 2, non sul 0,2, ho capito? Più o meno, adesso non... No, perché se mi dicevi scala 100, leggevi 2, erano 20 watt, no? aspetta che non c'ho il rosmetro davanti. Ma se su scala 100 dici 0,2, no, allora non sono 20 watt. No, ho sbagliato io proprio qua, sì. Sono 2 watt. 2, perché qui a 1 è 10 watt, 20 watt, 30 watt, 40 watt, 50, eccetera. Bien. Va bene, aspetta, cosa sto facendo dunque? Vai, che sono andato, adesso ancora è presto e faccio due cosette in casa già, poi verso le 6:30, 7 vedo se entrate, almeno chiedi un parere anche in distanza, no, siamo troppo, tutti troppo vicini, anche Platamona ce l'hai davanti, se volevi te l'ho detto Alghero, Muros, Osilo, è che non stanno entrando più loro, né Chiodo, non sta entrando persino nemmeno Uranio che una volta entrava da Osilo, c'era qualcuno lontano, cioè, almeno 20, 30, 40 chilometri anche. Ma Marco, io sono stanco di tutto, non ho fatto più, basta, mi sono rotto la palla, se no poi mi ero riesco. Stacco tutto quanto, lo vivo normalmente, vai. Grazie per l'aiuto, però mi sto già tutto confondendo, mamma mia, lascia perdere. Però già, come ti ho detto, adesso l'incremento c'è, l'incremento di watt c'è, quindi è cosa buona e giusta, hai capito? Con Royce soprattutto la radio era un po' più leggera ed era buona, con Royce e con la potenza minima era buona la modulazione, meglio di questa è sempre troppo tutto già. Ho affannata, poi dipende molto dalla distanza, se a volte parli più vicino così sento un po', se ti allontani troppo effetto stanza, si abbassa troppo di colpo, vabbè, ecco perché dicevo ci vuole un baracchino normale, tenuto normale, 4 watt o anche 3, mic normale eccetera. Va bene, dai, nel caso ci sentiamo più tardi, ok? Se no domani quando capita. Ciao già. Ehi Marco, questo è Russo, questo è Russo. Prima mi dava di vacanza, adesso me ne dà altri, capito? Prima me li dava, però adesso non me li dà più, non capisco perché, è sempre con la stessa potenza. Ah già, aspetta una cosa ti dico, dimmi se il lineare è caldo. No, perché ti spiego, questo qui, il 203, che adesso è in funzione, se non uso la ventola, se non metto la ventola che ho messo io, una ventola di computer, diventa talmente caldo, ma talmente caldo che secondo me si può anche rovinare. Se ci friggi le uova sopra me. Non è. Ci vuole per forza una ventola in tutti i lineari, anche lì, perché può darsi sia che più sta scaldando e più sta andando in crisi, capito? Ci vorrebbe una ventola sopra per computer, magari più larga, perché quella è grande, quella è bello grande rispetto a questo, che lo raffreddi costantemente. Se tutto che il mio adesso è freddo, è appena temperatura corporea, seppure. E quando scalda troppo invece tende il mio a uscire un po' male perché sta surriscaldando, ma guarda che diventa veramente rovente questo. E anche questo qua è caldo. No. Di ventole non c'ho problemi perché ne ho due, già col tastino fatto tutto, basta che premi il tastino si mettono in moto, però non è quello il problema è che non salgono i watt, non capisco perché. Adesso che li paga la roba, però con i watt normali me lo va giusto. Ah, non so se il rosmetro. Vabbè, se non vuoi perdere il segnale o watt, prova a levarlo, non so. Perché il rosmetro, guarda il wattmetro ti fa venire paranoia già, poi sa cos'è, il lineare in teoria lo dovresti analizzare in carico fittizio con un wattmetro almeno un Daiwa, almeno, cioè il minimo si dà cale il Daiwa secondo me. E poi col carico fittizio, perché guarda che a seconda dell'antenna che usi, lo sai, io me ne sono accorto, in base all'apparecchio, all'antenna a cui lo colleghi, su un'antenna mi segna, me lo ricordo dal passato, su un'antenna me ne segna 4, su un'antenna me ne segna 3, su certe antenne 2,5, quindi è l'antenna anche che ha un... Non te lo so spiegare già, dovresti chiedere un radioattore e farti spiegare il perché. Quindi se vuoi vedere i watt effettivi su carico fittizio, se ce l'hai, quelli a barattolo, sai, quelli là. Ok, vabbè, già, a dopo nel caso, se non ritieni ti salutato, ok? Sì, va, ciao ciao Marco, ci sentiamo, buona serata. Hola. Carlo? Negativo, Marco, ero qua di passaggio. Prima ero con doppio room e stavo provando una copiata lineare e così abbiamo fatto un po' di prove. E ho detto nel caso ci sentiamo dopo, non so se rientrerà, perché si era un po' buriato, capito? Va bene, sembra la mobile ovviamente. Sì, già, per tutto. E cosa vuoi fare? Io a quest'ora metto la parecchia macchina sperando di poter chiacchierare con qualcuno. Ah, Gianni è già sparito. Io stavo passando sotto casa sua adesso, perché la sera quando passo mi parcheggio sotto casa sua per vedere se lo prendo un po' in giro. Allora, dai, comunque. Se in quel ring se va bene, se no aspetta la gente qualcuno. A me l'ha già stato lineare, l'ha riparato lineare, funziona lineare dei Gianni. Poverino Gianni, non ne ha lineare, non ne usa mai, dai. Ciao Bru, no, a Marco sto dicendo. Come stavo provando uno, ma dice che non funzionava, l'ha sistemato Marco. Ciao Claudio. Allora, io non so se siano collegamenti sbagliati oppure spezzoni malfunzionanti, però prima, allora, lui aumentava di 2 Santiaghi, no? Con Royce che non pompa troppi watt modulati, io un paio di passaggi l'ho sentito anche bene. Quando poi tocca una levetta, saturava, probabilmente... non lo so, un pochino di saturazione la dava, però con l'altro apparato, vi spiego, l'altro apparato si aveva, che ne so, quei 4-5 watt di portante muta, però quando modulava aumentava di quasi 2 Santiaghi, da liscio e da liscio, quindi vuol dire che se ne stai dando 4 di portante muta, modulati ne stai dando, che ne so, 10, 15, se non 20, e così crepi tutto. Però il problema di Gianni è che non ha una modulazione costante del microfono, cioè o lo senti attaccato al mic, cioè lo senti così, oppure si allontana molto, parla a voce alta, quindi senti l'effetto stanza, non ha una modulazione costante, in breve, ecco. Poi ha detto che gli dava 40 watt, 40 watt in posizione bassa, poi man mano che scaldava dice che ne dava meno, che scendeva a 20 watt, io non ci ho capito niente. E poi nella scala 100 mi aveva detto, nella scala 100, che disegnava 0,2 o 0,2, che in scala 100 vuol dire 2 watt, poi si è corretto. Mi ha detto no, ho sbagliato, sono 20 watt, no? Io a un certo punto non stavo capendo bene cosa stesse facendo, quanti watt adesso effettivi, eccetera. Comunque guarda, se pilotato correttamente In breve, se pilotato correttamente c'è un incremento di 2 Santiago con la potenza minima e da lì non va toccato perché sarà alzi alla massima satura, quindi bisogna accontentarsi del minimo. Guarda, i 2 Santiago in distanza sono tanta ma tanta roba, va bene. Poi non so se si stava scorciando, forse voleva diceva nei bogodutto e non saprei, non so come sia finita. Non so, già, non riesco. Poi gli ho detto, le prove si fanno con un baracchino normale, col microfono normale, con i 4 watt volgari, così capisci il lineare se sta andando bene, se sta andando male. Ma non con l'amplificato sparato a manetta, cerca di capire, Claudio, no? Ma pensi mi state facendo, no? No, Marco, mi sembra Falcone, gli ho fatto una domanda, ma ho fatto tutto un telegramma scritto. Quindi praticamente, Gianni, l'hai provato questo lineare e c'è qualcosa che non va in quel lineare, stai attento che non ti bruci la radio, ma non fatti da un gomodo. No, magari, non lo so, perché il rosmetro funziona bene, mi dà 6 watt che diciamo le stazionarie, quando io lo metto normale senza lineare mi segna bene, con quello lì cavolo mi segna 0,2. Marco, te l'ho detto la prima volta, ho sbagliato, volevo dire che mi dava 2 watt invece che mi ha detto 20, però 20 a scala 100 praticamente deve segnare a 2, non a 0,2. No, già c'è qualcosa in corto lì, ok? Quindi lascialo perdere. Se poi lo vuoi riattaccare e fai la prova con me, io ti dico che tu passi da 5 watt di baracchino, 4 watt di baracchino a 8 watt. Sta incrementando pochissimo. Ok, perché Marco, vi tenete conto che Gianni quando aveva l'altro lineare suo da 9 andava a 9 più 25, e quello è un segnale. Allora i watt ci sono tutti, ma quando incrementi così poco, no? Watt aumentano, poi se lo strumento è buono, è normale, senza lineare segna bene, e con lineare non va bene, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Vabbè, torno subito io. Siamo qua. Ehi, già, ti dicevo, cerca di rimanere, adesso io ti sento bene, però cerca di rimanere alla stessa distanza dal mic, adesso è bilanciata, quindi non è né troppo forte quando ti attacchi al mic, né troppo lontana, né troppo rimbombante, capito? Devi ricordarti di tenere la distanza dal mic costante. Comunque, conta, Claudio ha detto che arrivava più forte, sì, ma l'altro era un 503, mentre questo è l'equivalente di un B300, ecco, una cosa del genere, capito? Il 503 era superiore, guarda, il 503 doveva dare in condizioni ottimali quasi 230, 250 teorici, però non te li dà, lo devi ottimizzare a tal punto che non te li dà. E comunque ricordate già che l'incremento comunque c'era, te l'ho detto, 2 Santiago con modulazione ancora buona, però con la potenza alta aumentavi di 1 Santiago ancora, però saturava un po', quindi bisogna un po' accontentarsi di avere meno watt e uscire meglio, però ricordate il microfono già, di rimanere a una distanza sempre costante, perché io in certi momenti non ti capivo. Non è una questione di distanza, è una questione di potenza. E quando tu non mi capivi forse ero troppo potente per quello che non mi ascoltavi, perché la distanza era sempre quella. Sto usando il microfono da tavolo, Marco. A meno che sia quando io ho usato quello con Ruiz, allora ti posso dare ragione, perché da palma a volte magari te la lontani troppo, a volte te la avvicini, quello succede. Poi guarda, il Royce era più contenuto, i passaggi migliori li hai tenuti con Royce. E quell'altro apparato, quando modulavi da liscio, dava dei picchi spaventosi, quindi anche se ne avevi 4-5 di portante muta, magari modulati te ne dava 10-15, quindi gli stavi crepando l'ingresso lineare, ce lo stavi saturando. Comunque già, in effetti, se quello fosse l'equivalente del B300, dovrebbe dare ben più di 40 watt. Capito? Poi come ha scaldato ne ha dati ancora meno, è una cosa un po' strana mia già. Sì, bisognerebbe ricontrollare un po' tutto, conta che non era nuovo, e quel lineare avrà 30 anni, 35, cioè è della vecchia guardia, non è neanche un 757. Il predecessore, diciamo. Detto ciò, dai, non mi voglio assillare troppo. Bruno, riprendi. Io lo so perché lo sta facendo già, perché ha visto il mio segnale, dice qua bisogna darsi da fare, per questo mi spacca l'antenna qualche sera. No, Bruno, ma il tuo sta funzionando bene, sì. Come? Il tuo sta funzionando bene, quello che ti ho detto io. Tra l'altro l'ho attaccato perché sono in macchina, perché? E ho paura di tenere l'affare acceso, no, il motore acceso, che è venuto a terra ancora martedì. Quello funziona bene, abbiamo provato, perfetto, sto piazzando nuovamente l'antenna a casa e ho intenzione di metterlo a casa. E solo che poi, vabbè, se, con calma ti devo chiedere una cosa, perché se, chiaramente avrò problema dell'alimentazione, io ho un alimentatore di quelli in Alessandria a 50 anni e non so se non la potenziando potenziare l'alimentazione per rendere un pochino meglio quella. Sì, no, provato, riprovato, va bene. Adesso è staccato. Poi, notte per tu, piazza tutto, l'alimentatore ne abbiamo da aprire negozi. Ce ne ho 5 scelte alimentatori da 25 ampere, da 30 ampere, da 20 ampere, non c'è problema. Tu piazza tutto e quando sei pronto fanno un colpo di telefono. Vabbè, no, quello è nuovo perché lo so, ma ce n'è anche un altro, sempre quello che l'ha dato a te. L'altro giorno ero con lui e in garage ne ha trovato un altro, uguale a quello lì, nuovo lo stesso, capito? Perciò quelli sono i migliori, quelli lì 747 è il migliore che c'è per la 27, va bene, dai sui 70-80 watt e funzionano benissimo, non ti saltano la modulazione, quindi quello lo puoi mettere a casa tranquillamente e ti aiuta tantissimo, Bruno. Sì, quel lineale lì, Marco, quello che c'ha, che ho visto la foto che mi ha mandato Gianni, è vecchissimo, è uno dei primi, forse il primo che ha fatto. Non è più così quello, assolutamente, molto diverso. Però stando fermo, come ho detto a Gianni, perché era un residuo che ha trovato Gianni, stando molto fermo, sicuramente c'era da dare una controllata prima di attaccare. Magari c'è qualche componente, qualche integrato, qualcosa che non sta funzionando bene, quindi non dà il giusto, capito? Ah, era pure fermo, vabbè. Però io a Gianni gli ho detto, già, siccome il 747 nuovo è fuori catalogo, non c'è più in catalogo, il 203 è il 747, se tu vedevi gli ultimi 747, aprivi dentro, vedevi il circuito stampato con scritto RM Italy Cappelle 203, ho detto puoi prendere quello nuovo però, cioè non roba di 40 anni, nuovo, lo piloti con meno watt possibili, io ho 4 watt, modulati saranno 4,1, però questo non satura, adesso credo di avere una settantina di watt reali, se non sono 70 saranno 65, però credo che non vada così male, no? Quelli sono i watt 747, non c'è che molta gente dice cazzate, io l'ho provato 747, prima di dare a Bruno quello che c'è, Bruno gliel'ho procurato io, era nuovissimo, trattato poco, l'ho attaccato al wattimetro della Kenwood, perfetto, dava intorno ai 65-70 watt, con 4 watt di pilotaggio. Ho attaccato un baracchino, l'Elbex, l'ho messo a 4 watt, ma wattimetro preciso, dava 65 watt, quasi 68 watt dava. Quelli sono i watt 747. Però Lini ha detto che non ti crea problemi, capito? Quello invece che ha preso Gianni è un lineare un po' particolare, che secondo me ha qualche problema, perché non deve funzionare così. Quello deve dare, allora mi pare che ci abbia 4 scatti, ci ha 5 scatti già. No, non è quella scatti, Claudio, è quello, ha due potenze, una bassa e un'alta, c'è il tasto. No, quello lì, se mi ricordo bene, che è un vecchio modello, al primo scatto deve dare intorno ai 90 watt, 80-90 watt, ok, al secondo scatto deve dare intorno ai 150 watt, non di più, non di più, ok, 150, 170 watt, non di più, perché quel lineare io lo conosco, l'ho visto funzionare, ce l'aveva un vecchio CB, l'ho visto funzionare, quindi quelli sono i watt, però il fatto che ti dia 20 watt c'è qualcosa che non va, vuol dire sta andando con qualche problema di finale. Non lo so se l'ideale c'è qualche cosa che c'è da me, magari cavi, ma li ho fatti tutti nuovi, gli spezzoni li ho fatti nuovi con l'H1000, con l'H100, come ciò, per averli tutti uguali, della stessa tipologia di cavo. Li ho fatti con l'H100, mi sono lasciato la massa per fare tutto, ho sprecato un bel tempo ieri, e invece il cavo era andato male, pazienza, là. Non c'è problema, non fa nulla, già vado a vedere anche così. No già, ma se avessi avuto problemi di caffi, sai pur certo che se il problema c'è con lineare attaccato c'è anche senza lineare. Se come dici tu, normale, col rosmetro attaccato, wattmetro attaccato, gli spezzoni sono collegati, l'antenna è collegato, il problema non ne hai tu, il problema è sull'amplificatore, sono sicuro al 100%. Sicurissimo, va bene, dai, il cambio per Bruno, vai Bruno Uragano. Ok, claro. Va bene, va bene. Vabbè, poi calma, si fa un paio di domandina, perché abbiamo un caso, perché io questo non è detto, non lo dimenticare, però una boomerang, quella che ho comprato a 3 metri, ho comprato da Fusano, perché ripeto, se riesco a farmi sentire per esempio, se io dalla macchina, parlando con quel tipo di sorso un giorno, mi chiedo un controllo, da Santiago Setta non mi sentivo a Santiago Nova, per cui la Santiago così è molto forte per dire che sta funzionando dalla macchina, ed ero a distanza di 10-12 km, per cui vabbè, con calma ne faccio. Ok. Riprendi Gianni. Vabbè, claro. Pazienza. Ma io ho perso questo, siccome tu hai detto i cavi ci sono anche uscendo normale, ma devi mettere dei cavi d'aggiunta per mettere il linearetto. Devi mettere i cavi dell'antenna, RTX eccetera, se devi aggiungere i cavi, quindi io li ho fatti nuovi, comunque sono sicuro che vanno bene perché li ho misurati anche con coso, c'è poco da fare con lo strumento. Sì, Gianni, io ti capisco perfettamente, però tu a Claudio devi dirle esattamente cos'è che hai fatto, perché io ti spiego subito una cosa, no? Fammi munire i picciti, perché se no non vedo i passaggi. Ti dico subito una cosa. Allora, aspetta che accendo la luce, tu li da mettere i piedi, tu vedi sempre mettere le balle. Allora, per poter attaccare il lineare, i passaggi sono questi, memorizza. Il cavo dell'antenna va ad antenna, rosmetro, wattmetro, ok? Discesa di cavo dell'antenna, l'antenna, strumento, ok? Il TX dello strumento, l'uscita dello strumento va ad antenna lineare, ok? Sì, ad antenna lineare. L'uscita del lineare, quindi il TX del lineare, va al baracchino. Tu hai collegato così? Sì. E l'abbiamo vista anche con Marco, perché avevo paura di essermi impappinato, a furia di cambiare, di fare. Gli ho detto a Marco, ho visto che impappinenti. E Marco mi ha detto i passaggi, li ho fatti così. Allora stai pur certo che hai problemi sull'amplificatore già, perché se i passaggi sono questi sono passaggi obbligati, quando c'è di mezzo uno strumento, se no la pratica è molto semplice, no? Capo di discesa dell'antenna ad antenna lineare, poi il fix del lineare va al baracchino, cioè quando c'è il rosmetro in mezzo, i passaggi sono qui. Se tu hai fatto quei passaggi, quel lineare ti consiglio di non usarlo, perché se ti dovesse fare un RF, come è successo a me, un rientro di radiofrequenza, come è successo a me, ok, guarda, ho avuto un culo della Madonna che non ho bruciato i finali della radio, ma sto parlando non di un baracchino, non di un baracchino. Con l'RM Italy io ho l'LB800, che non è un giocato, quella 320, il più grande che ha fatto la RM Italy, ok? Ho sbagliato, mi sono distratto, ho sbagliato una cazzata, ho preso un colpo di RF in ingresso, mi ha fatto partire un casino di roba sul ricetrasmettitore. Grazie ad un amico che ha le mani d'oro è riuscito a salvarmi la radio, altrimenti guarda, ci avrei rimesso una barca di soldi, perché il finale di quella radio costa una barca di soldi, quindi a queste cose stiamo molto attenti. Sì, vabbè, ma io le ho fatte di questi attacchi, già lo sai, ne ho avuto diversi di anni, per cui vabbè, adesso magari mi sono impappinato a chi è un grazie bene da rimani, vedi, guardando, facendo cavi, provando a fare spezzoni nuovi, eccetera, mi sono anche incazzato, capito? E quando sei incazzato non comprendi nulla. Ma quando si fanno queste cose non bisogna incazzarsi già. Lineare per provarlo ci vuole ben poco, uno strumento, un carico fittizio e lo provi. Se il lineare funziona, stai pur certo che col carico fittizio non sbagli. Dopodiché te lo colleghi piano piano, ma lì c'è un problema di fondo, sicuramente c'è un problema di fondo. Vai Marco. Ehi, sì, gliel'ho suggerito, se vuoi testare bene un lineare, gli metti una potenza costante, cioè gli metti un carico fittizio, però un wattmetro un po' affidabile, non dico che quello già ne è nuovo, no? Ma io almeno un Daiwa, di partire almeno da quello, se vuoi una lettura affidabile. Almeno capisci se l'antenna che ti fa scherzi strani. Comunque a quello non ci avevo pensato, rientri di RF sono pericolosi, guarda, a me era successo in macchina quando ero rientrato nel 2010-2012 che un lineare con l'antenna a base magnetica mi era entrato in autooscillazione. Cosa succedeva? Che il finale continuava a trasmettere e sentivo questo casino terrificante in tutti i canali e lì non mi ero reso conto che c'erano i finali in autooscillazione, rischiavo di bruciare tutto, allora ho spento tutto e poi mi ero reso conto, aggiungendo il wattmetro in macchina, cosa succedeva. E lì avevo risolto facendo una certa manovra, ecco. Però in effetti i rientri di RF possono far danni. Comunque ripeto, io Gianni con Royce, con la modulazione non troppo pompata, io l'ho sentito bene per due passaggi. Ah, poi Claudio, quel lineare lì è il clone del 757, uguale, c'è anche proprio la presa remote sul frontale, quel jack micro. E, allora, per la potenza c'è scritto class, non c'ha il potenziometro multiplo a scatti, c'ha classe AB ed è la potenza bassa, classe C dovrebbe essere l'alta. Allora, quando lui usava, diciamo, la potenza bassa, tra virgolette, terra a terra, era buono, aumentava di praticamente 2 Santiago e la modulazione era buona. Quando spostava in potenza alta saliva di un ulteriore Santiago, quindi vuol dire che almeno cioè, potenza ne stava dando un po' di più, però lì mangiava la radio, tutto lì. Però se Gianni si accontenta, l'importante è che non abbia rientri di RF, per il resto in realtà quei 2 Santiago di guadagno con una radio pulita li stava dando, è che Gianni stava facendo prendere un po' dalla raggia e dal panico, capito? Vai Claudio. Io ti capisco, ma quando tu mi parli 2 Santiago, cioè da 4 watt, fai che ti stia dando 15-20, è chiaro che ti aumenta, è normale, no? Ma Gianni non ne ha bisogno, perché con il Galaxy, con tutta la potenza del Galaxy aperta, arriva quasi 9 più 20, cioè di qua stiamo parlando. Con 4 watt mi arriva 9,5, 9,8, ma così come sta modulando adesso Gianni, c'è il tuo segnale e tu sei col lineare attaccato, perché lo vedo che sei col lineare attaccato e sei 9,20, se no il tuo segnale è 9 più 10, quindi capita cosa le serve. È chiaro che per avere 20 watt Gianni non se ne va di nuda, ne ha 15 nel Galaxy, cosa se ne va di 20 watt? Gianni doveva incrementare una potenza dai 150 a 180 watt, allora stiamo parlando di avere già un amplificatore che va bene, ma per incrementare 20 watt cosa ce ne va di... O no Gianni, sei d'accordo? Poi vai per Bruno. D'accordo, ma è la 30, che già bene vuoto. In effetti è così, claro. Allora io sono fatto così, se una cosa funziona come si deve, ok, se non funziona come si deve non mi piace più, sono fatto così. Claudio, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, infatti Gianni, ma sto pensando, cazzo c'hai anche il magnum, i mazzi 4 watt, cosa ti fai di un lineareto che tira 20 watt e ti ripeto, e hai quel dubbio che puoi crearti problemi anche sulla radio, dimmi Marco. Allora, mi è sembrato di capire comunque che Gianni, quando è entrato, all'inizio gli stesse dando 40 watt, quando lo sentivo con Royce bene, che ha pochi picchi di modulazione, però man mano che ha scaldato, come diventa, perché diventa bollente, è crollato a 20. Già, confermi, prima mi avevi detto tipo 40, massimo 45, poi man mano che scaldava è crollato a 20. Oh Gianni, vai tu. Sì, confermo, infatti la pazienza l'ho persa, perché non ne capivo più un cavolo, capito? Ho perso per quello, perché a un certo punto, vedi, che prima va bene, poi stavo sperando che magari con la massima potenza almeno 80 ridesse, invece no, non andava come volevo io, dai, e lascia perdere, io... Magari c'è qualche cosa anche da me, non lo so, può darsi che sia rosmetro vatto, vetro che si sia ammalato, cosa ne so, non lo so. Però qua adesso per dire che sta dando 10 watt, come col Galaxy 10 watt, da 9 a 10 modulati, mi dà così come sempre. Le stazionali sono 1 e 1, quello a volte andava anche a 2 di stazionali, non mi ha mandato così alto, addirittura usavo l'RM Italy e mi dava 1 e 3 di stazionali, 1 e 3, 1 e 2, 1 e 3, dipende dai canali dove andavo, ma non me ne ha mai date così alto. Ah, non è attaccare di quell'amplificatore, dai retta a me, dice qualche corto e quando scalda ti manda in tilt sicuramente qualche componente e rischi veramente di avere un rientro di RF e bruciati la radio, ma futti dini, mettilo da parte, c'è qualche problema, è da controllare quel lineare. Avanti Bruno. Ok, sto facendo una piccola cultura. Poi già fai da Bruno Vado Marco. Devo dire quello che hai, se ne hai un altro anche tu, come fai la prova, ti sei il dubbio, sia dall'antenna che dello strumento. Dopodiché pigli e se ne apri il rosmetto, ne volete anche un altro se ce l'hai, e così togli qua, togli là, arrivi a capire se veramente quello lineare ha problemi. È un rischio magari che mi metti anche l'apparecchio, che è molto più importante se ne hai fare un apparecchio che usare uno strumento del suonare. Comunque va bene, va. Sta facendo una piccola cultura. Vabbè, più forte questo lineare, dai, lo proviamo. E quello che usi tu sempre, quello piccolino, non ce l'hai più. No, non ce l'ho più, l'ho venduto, ho fatto una cazzata. Vabbè, dai, sto scherzando comunque. Va bene così, l'ho tolto, non le faccio Claudio, perché quando io me ne nervosisco lo sai come sono. Mi perdo la pazienza, poi se le faccio il dubbio. No, ma fate la pazienza, è tutto ciò che ti può girare le balle, perché è normale, lo fa anche a me. Lascialo perdere quell'amplificatore, già te l'ho detto. Se vado ad Alghero me lo faccio dare quel lineareto, te lo do io. Uguale a quello che c'è Bruno, te lo attacchi e sei sicuro che funziona. Sono sicuro al 100%, ma già lo provo io come ho fatto a Bruno prima di dartelo. Se ti dico io che funziona, funziona. Perché lo attacco qua sullo strumento della Kenwood, sulla T250, che è molto, molto preciso. Vabbè, c'è anche quello della Revex, c'è quello della Diamond di strumento, quindi non c'è problema. E sei sicuro che funziona, ti dico anche quanto assorbe, quanti watt là, è tutto come ho detto a Bruno. Perciò quello ha un problema, sicuramente ti crea problemi allo strumento e ti fa salire stazionari di colpo, lascia lì, mettilo da parte e via. Vai Marco, un secondo, arrivo subito. Vabbè, sì, poi con la storia delle stazionarie già è un'altra cosa, sì, è come, vabbè, poi quando rientra glielo diciamo. C'è il fatto che tu non hai stazionaria antenna, però se lineare a stazionarie, vuol dire che l'impedenza del, presumo che sia alterata l'impedenza del lineare, cioè l'antenna è 50 ohm, ma se hai stazionarie con l'antenna che non ha stazionarie, vuol dire che l'impedenza del lineare sta andando male, è disadattato, capito? Non c'è qualcosa sì di... Poi l'hai detto che era fermo, era, io credo fosse una cosa funzionante, fosse in uso, capito? Se è stato anni fermo, magari decenni, figurati. Vai Bruno. Ok, quindi a questo punto avrei fatto la cosa più semplice di questo mondo, avrei cominciato innanzitutto a usare una antenna, se c'è una antenna farà proprio una antenna, poi con un altro strumento, poi con un altro... Così vai per esclusione, perché magari se con lo strumento, se con lineare, se con lineare, visto che non è che si può dire la parete, non è che si può fare. Comunque, allora io, questa parete, quando ero io, quindi 30 anni fa, l'ho smesso, non ne ho mai avuto, l'unica cosa che ho avuto era nel mio ieri, era un FR52, allora avevo solo una ricerca d'ascolto, avevo quella direttiva omnidirezionale che mi aveva piazzato il toro, con la verde, e poi avevo una posizione micidiale, perché avevo davanti al monte, avevo un palazzo di 5 piani, avevo una, un detto libero, era una farsa. E poi chissà perché si passa la voglia e aggiungi queste tre cose, ho cominciato a buttare via tutto, con l'antenna mi ricordo l'omnidirezionale, quella l'avevo fatta qui, era enorme, tutti i cavi elettrici che andavano tutto a casa. E ripeto, e poi niente, adesso sto tranquillo, a farsi una chiacchierastina tutt'ina. Che trovata zio Gianni, che ne abbiamo parlato, se no non eri entrato. Dimmi Marco, cosa mi volevi dire? No, il fatto, allora Gianni non ha stazionarie antenne, il fatto che il lineare stesso li dia stazionarie vuol dire che l'impedenza è alterata del lineare, cioè l'antenna è 50 ohm, ma il lineare no, è come disadattato, non c'è qualcosina da vedere lì. O c'è qualche corto, perché a volte va anche con lo scarto. Bravo, no, non ho in corto col lineare Marco, è normale che lo faccio. Guarda, io con il mio, ti ripeto, ma io ho un lineare abbastanza grosso, un HF, un 030, ok, pilotato con l'HF che ho io, le do 30 watt d'ingresso ha praticamente anche il mio, no? Le remeter sono così, c'ha il LOV e l'HI, in potenza minima in LOV con 30 watt di pilotaggio ne tira fuori intorno ai 350, ma sono più che sufficienti, quando c'è un pile-up insomma un pochino incasinato ti aiuta, ma quando voglio veramente andare è un lineare che tira fuori 700 watt, 650 watt, quindi immaginate tu, su due potenze è quasi il doppio, la potenza minima è 350, la potenza massima è 700 quasi, quindi capito, PEP in banda laterale, in SSB picchi anche di 650 a 700, quindi ci deve essere un incremento doppio, se quello alla potenza massima si ammassa addirittura c'è un corto, è evidente che c'è un corto, quindi io già ne le consiglio di non usarlo perché può far danno. Paolina è staccato adesso, ho perso la pazienza e l'ho staccato, tanto così esco lo stesso, che cacchio me ne frega. sto incrementando 10 watt in più, ma devo fare i nuovi denti. Se adesso tu sei 9,15, 9,13, l'importante multa quando parli vai a 9,15, 9,17. Se tu attacchi il coso, il magnum, sei 9,20, anche più di Marco arrivi, perché la radio sta dando i suoi watt, i suoi 50 watt, e cosa vuoi? Non vai a lineare. È così, capito? Poi Marco, in base alle stazionarie, cioè ti stavo dicendo, poi non ho finito, quando io attacco un amplificatore, allora io ho stazionari in HF col dipolo in accordata, ho praticamente 1 e 1. Quando do potenza più alta che attacco l'amplificatore, sale di un pochino, vanno a 1 e 2, ma non di più, ma stiamo parlando di una potenza alta, circa insomma 500 watt, per capirci. Quindi non è che sale, perché? Perché la cordata amplificatore antenna radio è stabile, ma quando c'è un corto lì nell'amplificatore ti crea problemi, ti fa salire stazionarie, ti fa saturare, ti fa un casino della Madonna. Va bene, riprendi Bruno, Bianco per me che faccio roba qua in casa, vai Bruno. Sì, io adesso ho questo movimento per entrare piano piano, magari tra un po' si abbassano i segnali. Riprendi già. Sì, dai, stavo attaccando un altro apparecchio. Cosa stavi facendo? Stavo attaccando un altro apparecchio. Se lo dice Romagno, ma l'ha detto. Questo qua, ma lo volevano comprare, 451, non l'ho dato. Non lo dare, che anche quelli sono introvabili, non sono più in commercio, lasciati lì, c'hai la roba buona che funziona, ma c'hai la testa mania di dare. E io sai quante volte ho sbagliato. Io quando ho dato a Franco California, lo dico perché è la pura verità, la T250 per farsi la linea S80, ma gli ha mangiato le balle, perché sono stato anni che non riuscivo a trovarlo, e grazie ad una persona sono riuscito a ritrovarlo e mi sono rifatto tutta la linea. Io tutta la linea del 140 non la darò mai, perché è introvabile, quei pezzi sono introvabili sono, Gianni. Non bisogna darli, baracchini che c'ho, hai visto quel Galaxy che ti ho fatto vedere che non ce l'ha nessuno, perché quello è un Galaxy particolare, che è un sintonia continua, non è a bande, è continua, ti dà sul display la frequenza, tu giri il pomello, sembra un HF, capito, a scatti, tu giri e sembra un HF, e va da 25.500 a 29.800, quasi a 30 MHz, è una bestia, e c'ha 25 watt quel Galaxy, non lo sa la gente che me lo vuole prendere, non lo do, perché sono pezzi rarissimi. Piace anche a me, l'ho visto, è bello, piace anche a me come apparecchio, ma non l'avevo mai visto Claudio quello, mai. Perché sono introvabili, quello me l'aveva fatto avere Walter, capito? Che lui in quei periodi stava sempre cercando queste cose, che li trovava anche a prezzi allucinanti. Me l'ha fatto avere Walter, e ce l'ho, e non lo uso, l'ho provato, è perfetto, è bellissimo anche esteticamente. Lo posso mettere anche qua davanti agli HF, sembra un HF per come è fatto, sembra un HF, tutto bello, bello, una bellissima radio, non la do, ma per dire quello, ma anche i baracchini che ho, non li do, perché vai a darli due citi e poi ti mancano, perché come te, no, ti mancano, c'è un sacco di strumenti di vecchia generazione, capito, della CTE, ZG, Rosemary, Wattimeter, accordatori, DTM1000 ne ho due, ma no, non li do, cosa devo fare? Cosa? Me li tengo, io mi piace avere quelle cose vintage, capito? E alimentatori lo stesso ne ho tanti, ne ho della ZG, ne ho della Proxel, ne ho della un sacco di marche, sono tutti dentro l'armadio, ma alimentatori buoni che funzionano, capito? E non li do perché posso dire, adesso a Bruno serve un alimentatore, pronti, ce l'abbiamo, non sta lì a cincischiare, andare a spendere 150 euro per comprare un alimentatore, che sono tutti matti, capito? Un viti 30 euro, ma ne ho, glielo do io, non me ne affrutti nulla. Queste cose non bisogna darle. E ogni tanto io lo accendo, a me mi piace questo apparecchio, mi piace molto. E gli hanno adattato questo microfono che va anche bene con questo apparecchio qua. E se era Angus ha buon in macchina, no, ma è sprecato in macchina, dai. Ma io già macchina, ciappere, metti un baracchino normale in macchina, ma poi in macchina non va nessuno, cos'è? Questa è una bomba già, è una cannonata, è una modulazione bellissima, e lo sai, no, come la penso io, se te lo dico, no, te lo dico perché la modulazione è bella, chiara, amplificata, sento bene gli acuti, medio-alti, medio-bassi, sento tutto nella modulazione, a me piace così, e c'hai un segnalone, cazzo te ne fa delle miate, sei più alto di Marco, sei 9,20 con picchi modulati a 9,25, Marco Bologna attaccato a 9,20, lascia perdere, Uragano dove sei arrivato? Adesso sono via Giovanni Pascoli. Via Pascoli, va bene, arrivi sempre. E a me come mi senti Bruno Uragano? Insomma, potreste migliorare un pochino. Guarda un po' qui, mi schiena, regnare, deboluto. E vai, hai fatto i quattro buscicchi di sapone. Già Rosario, già del vostro, già Rosario che fa con l'antenna. Oh Bru, a proposito, vai tranquillo con quella boomerang, quella grande, quella lunga, perché quella lì tiene 100 watt, l'altra, quella corta, tiene 50 watt, quindi quelli di aretto glielo puoi attaccare tranquillamente, ok? Perché ce l'avevo io, lo puoi attaccare quando ero in via Pascoli, io quando sono arrivato prima di montare l'antenna usavo la boomerang nel terrazzino, quella lunga così, e c'ha 100 watt, quindi quel lineare 100 watt non li dà, ok? Perché l'ho provato io nella 60, e quindi puoi andare tranquillissimo. È un casino questo posto di grazie. Avrei avuto un'antenna come Dio comanda. Purtroppo, per salire sul tetto deve entrare dentro casa di un signore che, voglio dire, è anche gentile, ma io non mi posso non fare male questa volta, che tira un po' di vento, che la controlla l'antenna. Dopo è dentro casa sua, e da dentro casa sua salire sul tetto. Ma come cazzo hanno fatto questi costruttori che si ammazzano dal primo all'ultimo? Se no abbiamo altro un'antenna come Dio comanda. Ma mai le dice antenna a Boibuni Pulù sopra il tetto, mi? Oppure sta fatta su una ringhiera da qualche parte? C'è Gianni Baffetta che con quell'antenna a me mi arriva 9,15 qua, con la stessa antenna, con quella lì, messa sul tetto, mi arriva 9 più 15. Il problema è quello lì, di arrivare sul tetto, cazzo. Adesso io qua, sarò costretto, secondo me. E mi piantano nuovamente nella ringhiera dove vedo. E sopra poi c'è un palazzo di cemento armato enorme, di 4 piani, sopra la mia testa, per cui diciamo che c'è una zona che sarà verso la parte alta del segnale un po' buono, la parte bassa, Platamona, Porto Toro, Guagliero, quella zona là, il segnale è un po' perfetto, però purtroppo non posso fare altro. È un posto maledetto questo. Lo so Bru, il modo che ha la gente di affrontare questo discorso delle radio, ne abbiamo già parlato, tu sei anche un vecchio CB, quindi anzi avevamo un po' Garedo, è passata la mania, capito? Ma prima era una cosa indescrivibile, no? Si parlava, mi disturba la televisione, più e là, bim bum bam, mi faccio di deuri, ah vai e picca Dio, fortunatamente guarda, non ne ho mai avuto di questi problemi, perché io da casa di mia mamma a Porto Torres c'era atterrato e avevo messo la Super Regibus. Quando poi mi sono sposato sono andato via, la Super Regi poi è rimasta mio fratello, poi non modulava più, gliel'avevo tolta. Io come sono arrivato a Sassari ho piazzato subito immediatamente l'antenna, immediatamente. Grazie a Dio non ho mai avuto rotture di balle. Qua su a casa mia nessuno mi bodi nuda, quindi non c'è problema. E mi ricordo tutti i sacrifici e tutte le lotte che ha fatto Gianni, che ha detto per carità, te la metti già. Okay. Non me la metto, mi ha sentito ritirato, è un pezzo di cazzo, di uno assato, un altro assato, papini, ovi, per carità. Ho dovuto raccogliere le firme di tutto il palazzo per piazzarla, ma non l'avrei piazzata lo stesso, l'ho piazzata con l'ingagnia io. Non mi volevano dare le chiavi, sono andato da quella della mansarda che c'aveva le chiavi perché praticamente lui c'aveva l'antenna lì e l'antenna, la parabola, e quindi dovevo andare a controllare e fare. E gli ho chiesto le chiavi perché gli ho detto che si vedeva male il televisore, alla moglie, mi ha dato le chiavi, mi ho fatto il doppione e via, e ho fatto tutto. Ma già, Il giorno abbiamo piazzato l'antenna, abbiamo rischiato di trovarci alla Cinara. La prima volta con quel vettaccio 120, allora se mi già dubbio non ti riguardo, bro. Io sono arrivato in garage, sono 2 piani sottoterra, dunque non so se mi stai ascoltando, io invece sto ancora, non so se mi stai ascoltando, però dopo mi metto la macchina dentro e so che mi approfittare se stai ascoltando. Ci sentiamo un altro momento, e io ne abbiamo combinato, non ti preoccupare. Una volta, guarda, allora, non so se l'avete conosciuto voi, Nando Elettronico, aveva la sua famiglia di Giambo, il vecchio Giambo, insomma, c'è stato 500 mamma. Cazzo, guardi lì, i vigili urbani, cazzo, che si sentivano tutti quanti i citofoni che giracchiavano, cazzo, questo è il i citofoni, cazzo, era un casino, insomma. Quando era amico di Ora Zero, di Norto. Io adesso a Norto non ce l'ho da andare in questo momento. E lui abita di fronte a casa mia, lui abita a Antonello, infatti sono un coraggio di tutto. Sì, era in quei tempi, allora a quei tempi c'avevo quella, allora si usavano quei carri grossi RG8, no? Quel carro nero, erano molto rigidi, buchi dappertutto, buchi nella serrata, buchi nella parete, che se lo fai io si arrestano. Mi avevo fatto un po' di danno, vabbè, era un caso giusto. Ecco, è andata così, a quei tempi era così. Bei tempi, oi, oi, va bene, si è andato a portare il cane. Ciao Bru, allora, l'ho sentito che sei già in garage. Ci ascoltiamo alle prossime. Chiamami quando hai bisogno, ti ho detto, non ti preoccupare che a me non mi disturbi. Non stare a cincischiare e a romperti le balle. Vai Gian. Ciao Bruno, ciao, buon corretti, dai, ci sentiamo. No, claro, non sono ancora andato, sì, ecco, ricatto, ed è bello tranquillo, ancora mi trattengo un po', se no quando mi chiama, già mi chiama lui. Ci conferma, va bene, va bene. È così, cazzo mi ricordo, mi è rimasto sempre impresso quel montaggio di quell'antenna, la prima volta l'abbiamo piazzata c'è anche la buona mia Natalina. Un casino, io mi pare che quando ci avevano consegnato le chiavi al Palazzo dei Carbonazzi, gli appartamenti, avevo un po', vabbè, di ricatto subito all'arredamento della casa, eccetera, ma poi la settimana dopo, aiuta, io adesso ci dedichiamo, c'erano ancora qualche muratore, stava facendo qualche rifinitura, gli ho detto, ma le piazzi due staffe, le prime due, me le ho piazzate loro, ma è così, dove le vuole? Guarda, è quest'angolo, ma ho messo quelle staffe a buco, ti dico che ci sono ancora attaccate, ce le ho messo di antenne lì, e poi da lì ho iniziato una staffa lì, una staffa lì, una staffa là, aggiungendo tutto un derrato di staffe, e mi sono messo tutte le antenne che mi piacevano, mai mi hanno rotto le balle. E a chi cazzava in chimica, e con la piazza limica ci salgono tutti, manco le vedono. Poi, no, io, guarda, sempre così, mi adesso qua sto guardando, mi sta dando 30 watt. E te lo sta segnando? Te lo segna lo strumento? Lui, lo strumento funziona, non c'è niente. Perché? Perché non c'è nessun disaccordo, è tutto bello sistemato. Invece quando attacchi quell'amplificatore c'è un disaccordo allucinante, c'è qualche corto e ti manda il tilt, strumento e tutto il resto. Sì, è vero, no, questo adesso me lo segna tranquillamente, 30 watt è come è giusto che sia, e poi 100 nella laterale, in FM è qualche cosa più di 30, ne dà 40 forse. Sì, 45 ne dà l'FM, 45. Lo so, l'ho avuto, è una bellissima radio quella, compatta, bella, robusta, funzionante, cioè tutto quello che ti serve, potenza, canali, poi hai fatto un bel abbinamento, cos'è che gli hai abbinato, che microfono è? Il KTO. Il KTO è quello che mi hai detto che avete pagato una cazzata, quello lì? No, questo qui è quello che abbiamo preso io e Marco. Quello che abbiamo pagato la casa te è il Midland, quello che c'ho su Ruiz. E va bene lo stesso, quello che c'ha anche l'Eco, tutto quanto. Abbiamo pagato 25 euro, mi pare. Ne abbiamo preso due. Uno Franco Binario e uno io. Li abbiamo tirati insieme. Questo ragazzo di Alghero c'ha due M300 dentro la scatola. Nuovi. Nuovi, c'ha strumenti, c'ha anche quell'altro, il 747 che ho già visto, c'ha un Turner più 3, un Sadelta mi pare Master Plus, un Intec da tavolo lo stesso, sempre flessibile, tipo Sadelta, e c'ha delle cosettine che possono essere interessanti a qualcuno che le interessa, capite? Poi strumenti ne ha un bel, c'ha un HP 201, c'ha un TM1000, c'è un altro HP, tutta roba della ZG, ma strumenti che possono servire, insomma, ma a chi fa attività col baracchino non di certo servono per l'attività mia. Io ho tutto collegato sulla T250 che fa rosmetro, wattmetro, accordatore d'antenna elettronico, commutatore d'antenna 4 e poi uno strumento con intanto attacco e stacco, quello della Revex, che funziona quando devo controllare delle cose, uso quello, che capito? Ma stiamo parlando di roba seria. E come si chiama? Quello che c'aveva chiarissimo, come si chiama? Non mi viene adesso. Vabbè, comunque, uno di quei microfoni si adatta molto al Galas. E forse è il microfono che si adatta di più. Sadelta. Sì, Sadelta è l'ottimo microfono, l'ho avuto io, l'avevo dato a Giulio, si era rotto il coso, il PTT, non l'ha mai trovato e l'ha mai messo da parte, capito? Un ottimo microfono quello, ma anche quello della Intec, l'M500, quello della Intec da base, funziona molto bene con i baracchini, l'ho avuto anch'io. Ok, no, io ne ho i microfoni da tavolo, un Tane più 3 addirittura l'avevo dato anche a Franco, bello quello grigio, nuovo, ce l'ha collegato al Galaxy, mi pare anche lui, e funziona, Franco c'è fortissimo, arriva molto bene del radio, ma tu gli abbinamenti che hai fatto vanno benissimo, sia sul Galaxy, sia sul Magnum e anche sul Royce, va bene, non toccare più niente, va bene così, gli abbinamenti tuoi sono quelli, altrimenti te l'avrei detto. Io posso anche invertire i microfoni perché Galaxy e il Magnum hanno lo stesso attacco, se io voglio metto questo microfono nel Galaxy e vedrai come esce lo stesso, esce benissimo. E vabbè, questo microfono è buono, Marco mi ha letto le recensioni e mi ha detto già guarda io me l'ho ordinato, va benissimo, perché ho detto caspita che bella radio che c'hai, e mi ha detto io ho ordinato questo microfono e mi sa che me lo ordino anch'io, me l'ho ordinato anche io, capito? E mi ho fatto gli attacchi per qua. Certo che sì, aspetta che abbasso gli HF. Certo che sì, è così. No, io lo sai, ormai è una vita, mi conoscete tutti, io vado sempre con il K e MC60, però se voglio posso attaccare qualsiasi tipo di baracchino, c'ho l'MB più 4, più 5, il Tane più 3, c'ho quello grande che c'è anche cose che non mi biasi perché è troppo ingombrante, come si chiama? Butto, ce l'hai avuto anche tu mi pare, bello, nuovo, e poi vabbè c'ho anche quelli della Donis che hanno due uscite, quindi puoi usarle anche col baracchino, ne ho le microfoni da tavolo già, c'ho bubieno di roba, con tutto che ne ho dato un mare ne ho dato, ma ne ho ancora. Però questo che sto usando io non è il Magnum, Claudio, ti devo correggere, è il Cobra. Il Magnum S980 lo usa in macchina. Cazzo, ma infatti adesso stavo, tu c'hai il Cobra, quella è una bella bestiolina, quello te l'aveva dato Massimiliano. Capo, l'hai usato anche tu questo qua un periodo, te lo ricordi? Esatto, sì, quello lì, un mostro quello. Un mostro. un mostro. Poi c'è l'altro, quello che mi aveva prestato una volta a provare, che mi sono spaventato, Sandro Tigre, uguale a quello, però c'è a lineare sotto la pancia. No, funia mostro. Ma già una cosa indescrivibile con la radio. Anche questo ce l'ha. C'ha dissipatori sotto e dietro. E allora quella serie lì. Quella serie lì, un mostro, bellissima radio. Va bene, no, Tuccanuba, lascia stare tutto così. Io oramai sono abituato a usare questo tipo di radio, non me ne affutti nulla, però ti ripeto, se voglio posso mettere qualsiasi tipo di baracchino. Ne ho tanti, c'ho anche il coso, il Petrus, che è bello lo stesso, che è simile al Galaxy. C'ho l'Urano, c'è nuovo lo stesso, c'è un mare di canali. Ce ne ho baracchini belli, ce ne ho un sacco di baracchini belli, però non li attacco perché posto non ne ho, perché questo è a due piani come sempre, sotto c'è tutta la parte Kenwood, tutte le due linee complete della Kenwood, che uso una in 10 metri, una in 27 che la sto usando, e sopra c'è Noia Esio e tutti gli ICOM, che sono tutte radio amatoriali, quindi non voglio fare casino, sotto che mette i baracchini, sopra le radio, no, si graffiano, ohia. Yeah. Ogni tanto attaccali perché sennò si rovinano, perché io non so meglio di me, io il Galaxy sono stato il periodo che non entrava nessuno senza usarlo, l'ho acceso e sono scomparsi gli ultimi due numeri del frequenzimetro, me l'ha fatto una volta solo, come ho cominciato a usarlo non me l'ha più fatto. Sì, perché si scaricano i cristalli liquidi del display e vanno e si incasinano, capito? Tutto lì. Va bene, già, c'ho roba al forno, ti devo lasciare, organizzati col cane, ma io ti devo lasciare, perché sennò mi si brucia tutto. Ok? Grazie ai due chiacchiere, saluto tutti quelli che sono in ascolto. A frappè. Vai tranquillo, ciao, ci sentiamo. Non so se Marco è rimasto, Marco ci sì. E se mai rientro dopo, vai. Scappa, no, vabbè, io sto andando come guardo il televisore, non entro. Va bene, dai, ci sentiamo, ci aggiorniamo. Comunque, anche con questo, uno e due distrazionali, e quindi l'apparecchio non c'ha proprio nulla. Ah, vai, che con l'amplificatore ti stava mandando i titoli tutto. Mettilo da parte perché, ti ripeto, puoi crearti problemi. A tutti i non hai bisogno di legnare. Poi, ti ripeto, quando vado alla guerra me lo faccio fare, tanto un amico. Lo provo se funziona, ma già te lo provo io, non ti preoccupare. Ciao. Ciao, ci sentiamo.